have come to a pretty pass. Our romance is growing flat. For you like this and the other, while I go for this and that. Goodness knows what the end will be. Oh, I don't know where I'm at. It looks as if we two will never be one. Ha ha! Something must be done. Ma chi sarà mai? You say either, and I say either. You say neither, and I say neither. Either, either, neither, neither. Let's call the whole thing off. You like potato, and I like potato. You like tomato, and I like tomato. Potato, potato, tomato, tomato. Let's call the whole thing off. But oh, if we call the whole thing off, then we must part. And oh, if we ever part. È sempre la nostra elegantissima sigla. If you like pajamas and I like pajamas, I'll wear pajamas and give up pajamas, for we know we need each other, so we... E salutiamo la nostra compagna Sylvie, che era una One Woman Transmission che ci ha presentato Megaphonics. One Woman Transmission, sì. Smettila. Anzi, posso dire Une Femme Transmission, anzi Une Femme Emission. Vabbè, con dai, Megaphonics che sta inventando. Ebbene sì, è cominciato Spirito di Patata, l'avete riconosciuta la sigla sicuramente ci starete amando e lo potete fare squillandoci allo 06 49 17 50, ci piace ricordarlo, come ci piace ricordare che noi siamo la trasmissione di Femminismo Pop, lo posso dire questa cosa, la dico sotto sotto senza che dall'altra parte del vetro lo sentano, siamo la linea comica del martedì, si può dire questa sì, cosa? La linea non c'è però, come la linea non c'è, sì, sì. Cantava qualcun altro. E oggi 4 ottobre ricominciamo e ci alterneremo con Megaphonics, un martedì noi, un martedì Megaphonics. Vabbè, è semplice. È sempre così, siamo bisettimanali. Ah, siamo qui, è una parola 14 siamo. Sì, 15 semmai. No, 15 e poi magari una volta il martedì, una volta il mercoledì. Invece noi siamo... martedì, quindi 14 per forza, giorni. Il martedì va in onda del martedì. E quando va in onda il martedì? Il martedì autogestito va in onda il martedì, però magari la gente potrebbe confondere la M con qualcos'altro, come il mercoledì con il mai, con il ma che davvero. Invece il M significa martedì. F femminismo, L lesbiche, A autogestito. Quindi noi siamo bravo, vedo che pure lo spelling. Diciamo, io so fare tante cose. L'autunno porta consiglio. L'autunno porta consiglio. Noi abbiamo un sacco di cose da raccontare della nuova stagione di Spirito di Patata. Abbiamo da raccontare le nuove rubriche. Che bello! Abbiamo una trasmissione con molte rubriche. E ci ascoltiamo però prima una canzone perché le lasciamo cuocere nel loro brodo di Spirito di Patata. There's no shame in us playing the stuff that Sega Mega Drive. E così invece di immaginarvi nel traffico della nostra amata odiata città, vi potreste immaginare su un prato così a raccogliere i fiori in questo caldo tremendo di fine. Secondo me stanno tutti qui sotto a Via dei Volsci, perché sento un passare di macchine su e giù e sono tutti qua sotto. Ma bando alle ciance, abbiamo un sacco di cose da preannunciarvi, perché questa è una puntata un po' particolare di Spirito di Patata. Abbiamo condiviso lo spazio con Megaphone X per presentare le trasmissioni che si svolgeranno tutto il prossimo anno in corso, diciamo la stagione 2011-2012. Che cosa ci aspettiamo e che cosa vi potete aspettare? Tutte e due? Vai. Che cosa ci aspettiamo? Aspetta, riprendi il filo del discorso. Devo riprendere il filo del discorso. Non stonare tutti i nostri, le nostre ascoltatrici. Stiamo giocando col mixer per fare una cosa. Però hai rotto il ritmo. Hai rotto il ritmo della mia chiacchiera. Però stavo dicendo. Tanto non avevo sentito il ritmo della tua chiacchiera. Quindi. Stavo dicendo che. Comunque questa noi è siamo una... Valeria e Claudia, Claudia e Valeria. Indovinate chi dei due è chi. Così facciamo questo nuovo quiz. Il nuovo quiz. La Vale e Clo. Questa è una puntata particolare. È una puntata particolare perché è già finita, sì, perché abbiamo condiviso lo spazio con Megaphone X. È una puntata particolare in cui vi raccontiamo che cosa vi aspetterete dalla stagione 2011-2012 di Spirito di Patata. Dai, sembra la collezione autunno-inverno. La collezione, il modello Giuditta non ci sta. Però noi ci aspettiamo tante cose anche da voi. Eh sì, care mie. Perché non vogliamo lavorare tanto. Prima di tutto ci aspettiamo dei suggerimenti. Ci sta sempre la nostra famosa pagina nel social network più popolato al mondo. Indovinate quale? E noi speriamo che voi siate proprio delle gruppi, delle fan appassionate di noi e ci diciate quello che volete. Lo potete fare anche mandando un'email a mfla@ondarossa.info con in oggetto anche io sono una patata. No, non si può. Fate capire che è per Spirito di Patata. Fate un po' come vi pare. Quindi ci aspettiamo i suggerimenti e poi noi ci aspettiamo, io lo posso dire questa cosa, lo dico in segreto a queste migliaia di ascoltatrici che ci sono in questo momento, ci stanno sintonizzate con noi, che ho passato tutta l'estate a cercare una spalla. Perché pensavo dicevo, a leggere Mani di Ferro. No, non a leggere, ma a cercare una spalla per Spirito di Patata, la spalla comica, perché questa è la trasmissione comica. Dicevo no, perché sapete, cioè già mi vuole licenziare. No, Claudia non è la spalla, è un po' una spina nel fianco, no? Allora, manteniamo Claudia, però cerchiamo una spalla comica. Almeno questo. Quindi, se non volete, guardate mai Presa Diretta a proposito di stage spalla. Ecco, sennò vi deprimete per tutta la settimana successiva. No, a parte tutto. Quindi, se volete essere la nostra spalla, potete mandare sempre un'email con oggetto "Voglio essere la spalla". La tua spalla. Non quella in cui piangere, ragazzi. No, non quella su cui piangere. O se no, possiamo fare l'angolo di 5 minuti di intimità. Lo chiamiamo intimità. Sai che ci sta una rivista per donne che si chiama Intimità? Mica da ora. Mica da ora, da tanto tempo. Quindi, un'altra mail in oggetto è "Voglio essere la spalla", oppure se decide un'altra parte di cosa, "Voglio essere la mano". Comunque potete anche decidere di chi, così facciamo un po'. "Voglio di... essere il ginocchio". Noi possiamo accettare il ginocchio, voglio essere il gomito, ecco, dopo la spina del gomito. Non dire parole che non si possono dire per radio. Che cos'è? Va bene, questa sarà appunto una ricerca che abbiamo tempo, abbiamo un anno per trovarla, non c'è problema. Poi abbiamo un'altra rubrica, una rubrica nuovissima. Cioè, sto sudando comunque. Che si chiama "L'angolo del tè", che ovviamente non è di questa stagione. Arriva la stagione da venerdì, faccio anche l'angolo meteo da venerdì, si abbassa la pressione, freddo, pioggia e tutto quanto. Mercalli. Vabbè, nell'angolo del tè, che si terrà verso le 5:30, vorremmo che tu che ci parli siamo di te, British, perché vogliamo parliamo di British. te, me e pasticcini. Quindi racconta, cioè, i pasticcini li porti tu, però, perché noi ti offriamo il microfono e tu ci offri i pasticcini, perché è sempre tutto gratis, non è che mi potete pensare che qui qualcuno Mica stiamo a pettinare le bambole. Raccontaci quello che fai in 5 minuti. Beh, forse riusciamo a concedervi anche più di 5 minuti, però dipende dai pasticcini. Dipende dai pasticcini, non si vince nulla. E cerchiamo donne con capacità di sintesi, perché raccontarsi in 5 minuti non è molto facile, lo sappiamo. Però è un momento per stare qui in compagnia. Certo, dai, se lo fa, no? Se lo fa. Vi piace? Se non cominciate dall'infanzia, forse ce la potete fare. Ah, potete raccontare i vostri 5 minuti di precarietà, potete raccontare i vostri 5 minuti di follia, i vostri 5 minuti quelli di amore, i vostri 5 minuti... E poi dopo che avete fatto i 5 minuti potete anche salutare a casa. Sai queste cose? Posso fare i saluti a casa? Ecco, potete, dopo che vi siete raccontate per 5 minuti potete salutare a casa. Si accettano solo saluti a fidanzati. Facciamo un elenco. No, no, no, no, posso salutare anche la nonna. Chi vogliono loro? Le compagne di scuola. Quelli che non possono fare quello che vogliono. Come mainstream questa cosa. Molto. Noi siamo noi siamo mainstream. Noi possiamo parlare, noi qua parliamo di pop, però parliamo di un sempre a proposito, non al femminile, ma con femminismo, pop con femminismo. Sì, attenzione, basta a non confondere femminile, che con tutte le riviste femminili che ci stanno ci hanno rovinato la salute. Infatti. Quelle che ci leggiamo tutte, sì, anche noi, anche al bagno. Che stavo dicendo? Stavo dicendo una a cosa. A proposito, hai detto. A proposito, il fosforo che mi manca. A proposito, adesso ci sentiamo una canzone mainstream. Pop. Non sputare nel microfono. Che poi si e tu. Poi dopo ci sta un altro angolo, un'altra rubrica, quindi ascoltatevi. È un pentagono, è diventata questa trasmissione piena di angoli. Non si capisce più niente, va. Lady Gaga. Sì, è sempre la di Onda Rossa, siete sempre all'ascolto del martedì autogestito da femministe e lesbiche. Badate bene che lei è una grossa artista che tra l'altro in ambiente femminista queer internazionale ha molto successo. Qualcuno la vorrebbe adottare anche come teorica, pratica, performer e performer. Sì, perché stavi raccontando il video. Il video, se qualcuno di voi l'ha visto, è un bel video queer, direi, molto pop, molto patinato, però c'è lei che fa, diciamo, entrambi i generi nel video, quindi è molto carino. Passo alla rubrica successiva? Sì. La passo? Allora, questa è proprio... non so se Claudia l'accetta bene questa, l'accetta. L'accetta con l'accetta. Si intitola Sei un mito. Allora, vi ricordate la canzone? Non la cantate. No, no, no, no. Allora, a parte che devo fare, dobbiamo fare tutte le sigle, quindi abbiamo un paio di settimane per fare le sigle. Ci sarò io che karaokerò. Sei un mito. Io dai. Non lo faccio, raga, perché sono stonata. Come però svuotiamo, cioè, sei un mito che era la maglietta attillata e il jeans attillato. Ecco, no, per noi le donne mito non sono quelle con la maglietta attillata e il jeans attillato, almeno non lo diventano per questo. Almeno non lo diremo ai microfoni, sono fatti privati. Eh sì, sono le donne che al di là di questo, non so, il contenuto delle motivazioni, poi lo daremo insieme volta per volta, sono diventate un mito. E quindi ce n'abbiamo di miti, miti musicali, artistici. Però visto che una radio e l'artista è difficile da mostrarvelo, possiamo farlo con le canzoni e raccontando qualche storia in breve. Quindi saranno un 5-10 minuti di sei un mito. E poi no, Radio Londra era uno scherzo, la nostra ospite che ma abbiamo dato. Ma perché scherziamo che la chiamiamo, come no? Le incursioni. Esatto, tanto sì, ci potete tutte e tutti ascoltare in streaming su ondarossa.info, mettervi in contatto con noi appunto dallo streaming e quindi anche da tutti i paesi dove siete emigrate, espatriate, come appunto Presa Diretta ci faceva notare. Ascoltateci, dateci un feedback, non lasciateci qui da sole a noi. Ma noi non siamo sole, non siamo sole, lo sappiamo. Sappiamo che siete in tante e ci piace. Ah, che, ecco, mi sono ricordata. Mamma mia, c'è passato di tempo, però ce l'abbiamo fatto prima della fine. Prima della fine mi sono ricordata che è uscito il nuovo numero della nostra rivista preferita, che non è Vanity Fair, ci tengo a sottolinearlo, ma è XX Donne. Ah, bene, bene. Ma a questo punto ve ne parliamo, ma noi andiamo in onda martedì? O l'altro? Adesso facciamo, ci confabuliamo e ve lo facciamo sapere. Ve lo faremo in sapere diretta, col palinsesto, in diretta oggi. Sì, in diretta oggi. Il nostro, diciamo, quarto d'ora di presentazione è fortunato. Ci fermano qui. Anche, sì, perché, già... anche perché ho parlato a mitraglietta per esatto. Fare entrare tutto questo condensato, ecco, di novità. Pensa alla vita in secondo me gli dobbiamo almeno regalare una spilletta a chi viene a fare la vita in 5 minuti, perché cioè sfido chiunque. Sono le 18:04, incombe Atti e Misfatti, la trasmissione del contenitore agenda del martedì, dove ci saranno una serie di telefonate, appuntamenti, resoconti, assemblee che stanno per arrivare. Anche lì chi ha qualcosa da comunicarci lo può fare su mfla@landorossa.info. Spirito di patata, ovvero Clo e Lavale in stile e Lavale milanese. E poi vi ricordo vi dà appuntamento. Aspettiamo le mail di Voglio essere la spalla. Ah, certo. E suggerimento per Spirito di patata. Siccome vogliamo entrare in competizione, se ci mettete pure di chi volete essere la spalla. Ah, sì, siete... No, dai, stiamo scherzando. Qui si scherza perché almeno ridere fa bene alla salute e aiuta la rivoluzione. E poi perché siamo la linea comica del martedì. Serve sì, anche questo, serve. Sì, quello spirito appunto di patata che, insomma, che ci contraddistingue. Che ci contraddistingue. Ciao! Ci ascoltiamo Deni Siciliano e vi lasciamo ad Atti e Misfatti.